sto parlando del progetto Q di Wuming, del quale il collettivo Mulhausen sta curando una versione radiofonica, audio quindi. Ne parliamo con Stefano Greco, che è già stato nostro ospite. Stefano, ci sei? Sì, sì, ci sono. Oh. Buongiorno a tutti e a tutte. Allora, raccontaci un po' di quest'idea, come è nata, come si sta sviluppando. Beh, l'idea è nata dalla compagnia teatrale I Teatri della Viscosa, che diciamo erano innamorati di questo romanzo dei Luther Blissett, adesso Wuming. E quindi in quel periodo ascoltavamo parecchio le trasmissioni sulla radio che riguardavano i romanzi, dove c'erano gli sceneggiati radiofonici, le letture dei libri, perché viaggiando molto con la compagnia teatrale durante i viaggi era perfetto per noi poter ascoltare i radioromanzi, e quindi ci è venuta in mente l'idea di realizzare lo sceneggiato radiofonico del romanzo Q, che è un progetto ambiziosissimo, perché il romanzo, oltre ad essere estremamente complesso per quanto riguarda gli intrecci dei personaggi, è anche, diciamo, tratta argomenti abbastanza importanti. Quindi fare un radio romanzo del romanzo Q non era facile, però ci abbiamo provato. La cosa bella, la cosa che ci ha sorpreso, è le sinergie delle persone che gratuitamente hanno prodotto le prime due puntate, che sono state sì minacciate da noi ogni volta che dovevamo fare una registrazione, perché dovevamo assolutamente concludere, quindi ovviamente scherzando li minacciavamo. E poi però il risultato è stato al di là di qualsiasi nostra aspettativa, perché all'interno del gruppo c'era un fonico in gambissima, che era un amico nostro, che ha fatto le registrazioni e il montaggio e l'aggiunta degli effetti speciali, che hanno dato parecchio spessore alla chiamiamola scena, alle scene. E avevamo un altro amico che era che è un musicista e ha fatto delle musiche fantastiche per lo sceneggiato. Avevamo amici, gli attori che si sono inseriti nel progetto e hanno dato forza ai vari personaggi, che ne sono tantissimi, quindi ci sarà bisogno anche di altre persone che collaboreranno al progetto. E insomma, comunque alla fine della storia, dopo questi mesi di elaborazione, il prodotto finito è stato fantastico. Poi lo ascolterete, cioè lo so che dovrei essere l'unico, è come il macellaio che dice la carne sua è buona, però è così, cioè è proprio bello, cioè, a me piace un sacco. Poi è ovvio, ognuno Allora, a quanto leggevo dalla newsletter che hai mandato, la prima parte è già pubblicata, la seconda sarà pubblicata a breve, e state lavorando al resto, se non sbaglio. Beh, stiamo facendo la parte più noiosa e più drammatica per ogni teatrante, per ogni diciamo creativo, e che è quella della diffusione, cioè quella di far conoscere quello che hai fatto, che è un lavoro stressante e devastante. Noi in più abbiamo, oltre all'ambizioso progetto di produrre un radioromanzo, abbiamo anche l'ambizioso progetto di cercare tra la gente i nostri mecenati. quindi stiamo facendo appunto questa campagna di crowdfunding su produzione dal basso, che è molto ambiziosa. Però quello che mi sento di dire è che, dato che siamo, che nessuno di noi proviene da una famiglia ricca né ha un mecenate alle spalle che lo finanzia, per produrre 35 puntate di questo radioromanzo dobbiamo sottrarre tempo, il lavoro, al nostro lavoro e al nostro tempo che ci permette di vivere. Sì. E quindi non potevamo farlo gratuitamente. Non sarebbe venuto la stessa cosa, insomma. Mm-mm. Questo è. Senti, allora, quindi abbiamo pensato di fare la campagna proprio per questo. Stefano, allora ci lasci gli estremi per saperne di più e per contribuire a questo progetto. E poi indicativamente mi sembra che mi avevi lanciato come data possibile per la radio la fine di novembre. Per me cioè, il progetto, essendo in crowdfunding, sarà totalmente libero e fruibile da tutti, quindi per quanto mi riguarda la radio può e chiunque può trasmetterlo. Ok, come poi ci fare dove vuole. Allora ci metteremo d'accordo per fare una cosa magari a puntate con una sua continuità. Va bene. Magari lasciaci tutti i riferimenti internet. Perfetto. Allora, per andare ad ascoltare le prime due puntate, dovete andare su www.teatridellaviscosa.com. Per andare a finanziare, a sostenerci, o ci sostenete direttamente cliccando il tasto dal sito, o altrimenti andate su Produzioni dal Basso e ci cercate come Radio Romanzo. Siamo l'unico progetto Radio Romanzo di tutta il sito Produzioni dal Basso. Bene, allora Stefano, io ti abbraccio e ci vediamo e ci sentiamo prossimamente. Grazie mille. A presto a questo punto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao.